figlia, poi è andato a vedere la partita con gli amici, è stato arrestato e ha confessato, è responsabile della strage a Motta Visconti, nel Milanese. Roma, la calma dopo il nubifragio. Ancora stamattina è stata chiusa la metro A mentre la procura apre un'inchiesta. Intanto i temporali colpiscono la Sardegna. Lagamenti, una famiglia si rifugia su un tetto a Santa Teresa di Gallura. Le aperture di Grillo a Renzi sulla legge elettorale. Il presidente del Consiglio dice sì, ma il confronto avvenga in streaming. Chiede perché lo vedano tutti. Il giorno delle scadenze fiscali, IMU, TASI, TARI, F24, 7.30, ma per quanto riguarda le nuove tasse sulla casa nulla è certo, alcuni sindaci hanno già spostato ulteriormente le scadenze. Mondiali oggi in campo, Germania e Portogallo, venerdì la prossima partita degli azzurri contro il Costa Rica. In NBA gli Spurs vincono il campionato e tra loro c'è Bellinelli, primo italiano a salire sulla vetta del basket americano. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. I nostri contatti, effettogiorno@radio24.it, il mio account Twitter, Simone Spezia, la nostra pagina Facebook. Apriamo con quella che sembra essere, almeno per come ci è stata presentata, una buona notizia, ossia il risveglio di Michael Schumacher. In studio con me Carlo Genta. Carlo. Ciao Simone, buongiorno a tutti. In effetti è la notizia migliore che ci arriva da quel maledetto giorno di gennaio in cui Schumacher ebbe questo incidente. Sappiamo bene come in questi mesi si siano susseguite schiarite e pessimi commenti, pessime opinioni sul destino di Schumacher. C'è stato qualche medico a lui vicino che ha detto non si riprenderà più. C'è stato, è inutile nasconderlo, il serio timore che finisse nel peggiore dei modi questa storia. Quindi non possiamo che accogliere il sole, la notizia è questa, non ci sono molti commenti, Schumacher non è più in coma, si appresta a lasciare l'ospedale di Grenoble, servirà una lunga fase di riabilitazione che avverrà a Losanna, la sua portavoce, che è stata l'unica voce attendibile, credibile, ufficiale in questi mesi, ha detto che la famiglia di Schumacher chiede a tutti di rispettare il fatto che la sua lunga fase di riabilitazione si svolga solo in un contesto privato, quindi la notizia che aspettavamo è arrivata. Adesso non chiediamo nell'immediato molte altre, però insomma Schumacher è fuori dal coma e quindi ha avuto reazioni positive per quanto riguarda il decorso della sua malattia, dei suoi problemi. Adesso tratta solo di aspettarlo, lasciandolo in pace e affidandoci più che mai alle parole della sua portavoce, che alla fine è stata l'unica credibile in questa vicenda. Allora, grazie Carlo. Intanto, naturalmente, se ci saranno altri aggiornamenti nel corso della giornata, ve li daremo. Ti ritroviamo ovviamente in tutti i convocati, dove si parlerà anche di mondiali e, suppongo, Carlo, di NBA. Tra poco sentiremo un servizio, ovviamente. Noi adesso passiamo alla cronaca italiana con il triplice omicidio in provincia di Milano, che ha un colpevole. Ha ucciso la moglie Cristina, 38 anni, e i due figli, Giulia di 5 e Gabriele di neanche 2 anni. Poi Carlo Lissi, marito e padre delle vittime, è andato dagli amici, come da programma, a vedere la partita della nazionale italiana. È stato lui stesso a raccontare durante un duro interrogatorio quanto realmente accaduto sabato sera nella villetta di Motta Visconti, dove abitavano. Passionale il movente, ha confermato il comandante provinciale dei Carabinieri, Maurizio Stefanizzi. Lissi era invaghito di una collega e considerava la famiglia un ostacolo ad una passione comunque non corrisposta. A un certo punto psicologicamente è crollato e il momento del crollo, dopo essersi messo in assortimento a riflettere con la testa tra le mani, ha detto: voglio il massimo della pena. Il suo racconto ha anche consentito di ritrovare l'arma del delitto, un coltello abbandonato in un tombino, e di sgombrare il campo dalle altre ipotesi, come la rapina, che pur aveva tentato di inscenare. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci spostiamo a Roma, il giorno dopo il nuovo nubifragio che ha messo in crisi e in difficoltà la città. Ce n'è stato un altro, tra l'altro, stamattina quasi all'alba. Il punto con Alessandra Schepisi dalla capitale. Alessandra, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Intanto diamo due notizie: che nella capitale da circa mezz'ora ha ripreso a piovere, per ora però sembra fortunatamente non con l'intensità di ieri, e che la Procura di Roma avvierà un'indagine sui disagi registrati in città dopo appunto questa forte ondata di maltempo. Un fascicolo per ora senza ipotesi di reato, ma non si esclude che dopo i primi accertamenti si possano ipotizzare una serie di reati, tra cui il disastro colposo. E questa è una risposta all'esposto del Codacons, alle denunce da parte di molti cittadini che si sono unite alle inevitabili polemiche. Ma quali sono state le conseguenze del nubifragio? Alberi abbattuti, voragini, allagamenti, alcune strade chiuse e dunque traffico in tilt. Più di 100 le chiamate ai vigili del fuoco da parte soprattutto di cittadini a cui si è allagata la casa nella zona di Prenestina, Primavalle, Piazza Bologna. La metro però è tornata a circolare, così come è stata risolta la criticità del grande raccordo anulare nel quale ieri, ricordiamo, erano rimasti intrappolati molti automobilisti. Insomma, sarebbero state risolte le situazioni più critiche con interventi più tempestivi rispetto al nubifragio del 31 gennaio scorso, così afferma il capo della Protezione Civile di Roma, Mario Villarosa. Sentiamo. Abbiamo chiuso circa 30 interventi per allagamenti, ne abbiamo in piedi circa una ventina, perché da stamattina sono arrivate altre notizie. Sono circa 60 alberi che sono caduti, fortunatamente non ci sono state grosse problematiche dal punto di vista fisico per le persone. Ma le criticità maggiori in questo momento quali sono? Guardi, criticità maggiori in questo momento non ci sono, se non ho saputo in questo istante che è stata riaperta totalmente la tratta della metropolitana. Per raccordo anulare invece? Il raccordo anulare è tranquillo in questo momento. Purtroppo c'erano le caditoie nel pomeriggio di ieri, il vento, le alberature che cadevano, i rami e le foglie si sono posizionati purtroppo sulle caditoie otturandole, e questo ha determinato l'innalzamento dell'acqua. Quindi insomma sono stati risolti in poco tempo questi allagamenti. Diciamo siamo riusciti a risolverli, certamente abbiamo avuto anche la fortuna anche stamattina che dopo questa forte precipitazione temporalesca delle 4:30 da allora non ha più piovuto, quindi ci ha consentito anche di intervenire in maniera più rapida e più funzionale. E grazie alla nostra Alessandra Schepisi per questi aggiornamenti. Nel frattempo un violento nubifragio si è abbattuto stamattina su Santa Teresa di Gallura, siamo in Sardegna naturalmente, che ha una precipitazione che ha allagato strade e cantine di vari quartieri della città, in particolare nella zona del porto. Addirittura una famiglia è stata costretta a rifugiarsi sul tetto della casa. Naturalmente vigili del fuoco e protezione civile stanno intervenendo. Oggi tra l'altro è un giorno particolare perché si festeggiano i 150 anni delle previsioni meteo. Auguri vecchio meteo, fai 150 anni ma non li dimostri, anzi più passa il tempo e più siamo tutti pazzi per le tue news, programmi, approfondimenti, app, un diluvio di cicloni e anticicloni, nubi e precipitazioni, ventilazioni e pressioni che alla fine aggiungono ansia supplementare alle nostre ansie quotidiane. Una volta, prima di aprire l'ombrello, si guardava il cielo, adesso il tablet. Appesi alle nostre incertezze globali, vogliamo avere almeno delle certezze meteo. Piove nel weekend e a Natale e a Pasqua. Quest'estate sarà ancora più calda di quella del 2003. Con satelliti e computer tanti passi avanti sono stati fatti da quando partì a Londra, ovvio, il primo ufficio meteo. La Royal Society, per evitare di perdere marinai nelle tempeste, lo affidò a Sir Robert Fitzroy. Aveva 3 dipendenti e ogni giorno sul Times teneva una rubrica di previsioni sulla quale fioccavano barzellette a raffica. E in questo non siamo molto cambiati. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La politica ci porta a parlare delle aperture di Beppe Grillo a Renzi. Tra l'altro di riforme si è parlato poco fa al Quirinale, da quel che stiamo apprendendo dalle agenzie. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, proprio così Simone, il premier Matteo Renzi è salito questa mattina al Quirinale per parlare di riforme con il capo dello Stato Giorgio Napolitano, che ha chiesto di valutare il più ampio coinvolgimento possibile di tutte le forze politiche delle riforme adesso all'attenzione del Senato. Non si conoscono però poi i dettagli dell'atteso incontro tra il Movimento 5 Stelle e il PD sulla legge elettorale, ma c'è cautela da parte dei democratici dopo lo streaming richiesto questa volta dal premier Matteo Renzi anche sui contenuti. Il confronto va cercato con tutte le forze che siedono in Parlamento, ma non si ricomincia perché il Movimento 5 Stelle è uscito dal blog, dice Marina Sereni, mentre Forza Italia è prudente. Per il Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, Francesco Paolo Sisto, l'apertura di Beppe Grillo potrebbe essere un'azione di disturbo all'asse Forza Italia PD. Frena anche il nuovo centrodestra, per Gaetano Quagliarello va bene il dialogo, ma bisogna prima partire dalla maggioranza. Si sa invece l'orario della conferenza stampa del Movimento 5 Stelle, alle 16 in Senato con i capigruppo Buccarella e Brescia e il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio. Al di là del metodo, però, le posizioni nel merito sono molto distanti. Il PD preme per l'Italicum, maggioritario e premio di maggioranza, mentre i grillini per un proporzionale con collegi piccoli e preferenze. Quindi difficile che si giunga ad un punto di incontro. A te, Simone. E grazie Elisabetta Fiorito, e proprio con Maurizio Buccarella del Movimento 5 Stelle parleremo più avanti nel corso della trasmissione per capire quali sono effettivamente i margini di trattativa. All'estero adesso ci sono le notizie dall'Iraq, torneremo tra l'altro a parlarne più avanti in America 24 con Mario Platero, dove Washington si sta preparando a quanto pare a colloqui diretti con Teheran, con l'Iran, per trovare il modo di affrontare la situazione nel paese, in Iraq. Il dialogo dovrebbe cominciare già in settimana. Intanto gli jihadisti avrebbero conquistato terreno a Tal Afar, al confine con la Siria. Il sindaco riferisce di circa 200.000 persone in fuga. Saluto innanzitutto Alberto Negri del Sole 24 Ore. Alberto, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. E bentornato ai nostri microfoni. Al di là della situazione irachena, abbiamo delle altre notizie che ci arrivano in questa mattinata. Una vasta operazione militare nel Pakistan, nel nord del Waziristan, dove naturalmente sono ancora forti i talebani. Quali talebani? Dicono, intimano agli investitori stranieri, alle compagnie multinazionali e a quelle aeree di lasciare immediatamente il Pakistan perché siamo in stato di guerra. Abbiamo di questa mattina le violenze degli Shabab in Kenya con 48 vittime. Con te Alberto, dunque, a te vogliamo chiedere un commento, un'analisi su quello che forse potrebbe essere un ritorno dello jihadismo almeno in una serie di paesi. Ma sì, io direi che purtroppo il jihadismo non è mai morto. Tanto per cominciare, in Pakistan, al confine con l'Afghanistan, i talebani sono sempre stati forti, lo sono ancora, tant'è che si permettono di mangiare gli investimenti stranieri, le compagnie aeree e via discorrendo, e stanno mettendo fortemente sotto pressione il governo del primo ministro Nawaz Sharif. E poi gli Shabab in Kenya vengono dalla Somalia, lo sappiamo, purtroppo un paese fuori controllo ormai da più di due decadi, e abbiamo visto quello che hanno fatto l'anno scorso, 67 morti nell'attacco a un mall importante di Nairobi, questa volta 47 o 48 morti, non so bene, ma insomma sono situazioni assolutamente pericolosissime. A tutto questo accompagnato dal fatto che in Iraq, ma anche in Siria, i jihadisti sono in avanzata più o meno dappertutto. Pensiamo, e questo è il mio commento, che questi eventi non abbiano alcuna influenza anche su di noi? Beh, forse ci illudiamo. E che influenza possono avere, Alberto? Ma sappiamo benissimo, per esempio, che in Siria stanno combattendo molti jihadisti con il passaporto francese, britannico, tedesco, e quindi questi potrebbero anche tornare indietro e continuare, per esempio, a operare in territorio europeo. Ma poi pensiamo soprattutto alle decine di migliaia di morti che ci sono, ai milioni di profughi che si stanno producendo in questa regione, ai confini di questa regione che stanno crollando praticamente. Bene, non possiamo permetterci di avere stati che crollano uno dietro l'altro senza fare nulla e soltanto assistendo a quello che potrebbe essere lo stravolgimento di una vasta area del mondo che va dal Medio Oriente al Mediterraneo, e pensiamo anche alla Libia che ci sta di fronte. Grazie Alberto Negri, inviato al Sole 24 Ore. E un altro punto, un'altra area di crisi è quella dell'Ucraina. Le notizie di questa mattina arrivano dal fronte del gas. La guerra da questa mattina si combatte soprattutto a suon di cause e ricorsi. L'ultimatum di Mosca a Kiev per il pagamento del debito ucraino sulle forniture di gas è scaduto alle 8. Solo pochi minuti dopo Gazprom ha annunciato l'entrata in vigore di un sistema di prepagamento. In sostanza, l'Ucraina dovrà pagare in anticipo per avere il gas. Nessun problema per l'Europa, hanno detto i russi. Per i gasdotti ucraini transita la metà del fabbisogno europeo. Nessun problema a meno che Kiev non devi il corso di quel gas per destinare alle proprie centrali. Tanto per chiarire meglio il messaggio, Gazprom ha anche avviato una causa contro la società ucraina di gas presso la Corte arbitrale di Stoccolma per recuperare tutto il debito che pende su Kiev. L'Ucraina Neftogaz ha risposto presentando ricorso alla stessa Corte per riavere circa 6 miliardi di dollari dal colosso russo. Secondo Kiev si tratta di soldi versati indebitamente, poiché il prezzo del gas era eccessivo. In mezzo sta l'Europa. Bruxelles continua a mediare e ribadisce attraverso il commissario all'energia Oettinger che una soluzione sia tuttora possibile, ma è lo stesso Oettinger a fotografare la realtà. Quest'inverno l'Europa potrebbe dover fare i conti con la mancanza di gas, ha detto il commissario. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Michael Schumacher è uscito dal coma, comunica con la moglie con gli occhi, sente tutto quello che gli viene detto, l'annuncio è arrivato dalla sua manager, l'ex campione di Formula 1 ha lasciato l'ospedale di Grenoble. Ha ucciso la moglie e i figli e poi è andato a vedere la partita con gli amici, è stato arrestato e ha confessato il responsabile della strage a Motta Visconti, nel Milanese. A Roma la calma parziale dopo il nubifragio, gli aggiornamenti sulla situazione del traffico l'avete sentiti un attimo fa, la procura ha aperto un'inchiesta, intanto i temporali colpiscono la Sardegna, allagamenti, una famiglia si è rifugiata sul tetto a Santa Teresa di Gallura. Le aperture di Grillo a Renzi sulla legge elettorale, il Presidente del Consiglio dice sì, ma il confronto avvenga in streaming perché lo vedano tutti. Oggi è il giorno delle scadenze fiscali, IMU, TASI, TARI, F24, 7.30, ma per quanto riguarda le nuove tasse sulla casa, nulla è certo. Alcuni sindaci hanno già spostato le scadenze. E ci spostiamo in Brasile dal nostro inviato Dario Ricci. Dario, ciao, buongiorno. Buongiorno Simone, buon dia da Itacurusa. Allora, oggi parecchie notizie che arrivano dunque dal sportive e che riguardano l'Italia e che arrivano dall'altro continente. Tra poco sentiremo che cosa è successo in NBA, dove hanno vinto gli Spurs di Bellinelli, tra i quali c'era Bellinelli, primo italiano a salire sulla vetta del basket americano. Invece da te vogliamo notizie sulla nostra nazionale, posto che già nei titoli lo dicevamo, oggi c'è Germania-Portogallo, quindi gran bella partita da vedersi. Eh sì, davvero, oggi è la giornata di Germania-Portogallo. Per quanto riguarda gli azzurri, ieri allenamento defaticante dopo la bella vittoria di Manaus, il protagonista di giornata ieri è stato il professor Castellacci, che suo malgrado è diventato protagonista della spedizione, visto gli infortuni più o meno gravi che stanno caratterizzando gli azzurri. Ottimismo con cautela, direi, Simone, per quanto riguarda le condizioni di Buffon e De Sciglio. Castellacci non si è sbilanciato, ha detto non ci sono tempi certi sul recupero dei due, quindi monitoriamo la situazione giorno dopo giorno. Tra l'altro oggi è previsto l'incontro con la stampa proprio di quel Salvatore Sirigu, che è diventato il protagonista di questa spedizione, vista la bella prova con le sue parate contro gli inglesi, no? È un pensierino a tenerlo in campo, forse si può. Bravo, hai detto proprio bene, perché sicuramente non è la prima volta che nella porta azzurra, in un appuntamento così importante, c'è un avvicendamento così significativo. Basta ricordare i mondiali degli Stati Uniti 94, quando l'espulsione di Pagliuca lanciò Marchegiani e poi Pagliuca giocò invece la finale. Però quello che è sicuramente importante è che Sirigu si è confermato in azzurro di assoluta garanzia, è protagonista da almeno un paio di stagioni in Champions League con il Paris Saint-Germain e non è certo poco, e quindi insomma ben venga per Prandelli questo problema, anche dover mettere in discussione il ruolo di numero uno. Meglio così, meglio avere più opzioni. Grazie al nostro Dario Ricci, come si diceva, restiamo insomma da quel lato del pianeta, e però andiamo un po' più a nord, all'NBA, con la cronaca di questa finale. No, i San Antonio Spurs non sono la solita squadra americana che vince un titolo NBA, il suo quinto in 15 anni, battendo 104-87 gli Heat 4-1 nelle finals. Il motivo è semplice: nella franchigia del Texas c'è ben poco di statunitense e tanto invece di europeo. Parker e Dio sono francesi, Ginobili argentino naturalizzato italiano, Bellinelli bolognese, nonché primo italiano a vincere un trofeo così prestigioso, Splitter brasiliano ma di scuola spagnola. Una squadra fortissima, capace di demolire i campioni dei Miami Heat, simili più a dei supereroi che a dei giocatori di basket. Basta guardare LeBron James per crederci. Loro sì che hanno tanto di americano, muscoli, faccia, atteggiamento. Ma stavolta ha prevalso lo stile europeista di un signor allenatore, Greg Popovich, nato a Chicago da genitori jugoslavi, padre serbo e madre croata. E allora sarà pur vero che San Antonio oggi, nel 2014, con la vittoria del titolo, ha cambiato la storia dell'NBA, perché una squadra con una colonia europea così nutrita e soprattutto determinante nel successo finale non si ricorda davvero. Bravi texani che hanno avuto il coraggio di invertire la rotta e di affrancarsi dalla bandiera stelle e strisce. Carmelo Prestisimone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, San Antonio, Stati Uniti. Maurizio Buccarella del Movimento 5 Stelle, senatore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, questa apertura a Renzi che avete fatto, quantomeno sulla riforma della legge elettorale che è arrivata dal suo partito, c'è chi già dice c'è sotto la fregatura, insomma, perché vogliono in realtà il Movimento 5 Stelle è un'apertura di facciata e al limite serve per creare problemi a Renzi con i suoi senatori dissidenti. No, veramente il nostro approccio solitamente pragmatico, anche in questo caso, va interpretato nel senso che è quello dichiarato. Noi abbiamo finalmente una legge elettorale costituzionale, creata con il voto sulla rete, è stata depositata da qualche settimana e stiamo offrendo al governo la nostra disponibilità, che non è poi una nuova, non è una di portata così storica, perché la disponibilità al confronto, al dialogo è quello che facciamo nel merito delle questioni ogni giorno nelle commissioni Camera e Senato. Stiamo solamente rendendo noto, perché magari molti cittadini italiani neanche lo sanno, che c'è una legge elettorale alternativa all'italicum ormai morente, che è stata costruita e votata 240.000 volte su internet e che noi riteniamo sia meritevole di un confronto politico con il governo e con le altre forze politiche. Senatore Buccarella, ricordiamo che i 240.000 voti sono è la somma dei voti per ciascuna parte. Per ciascuna parte della legge elettorale. Infatti ho detto voting proprio per questo. Sente una cosa, vorrei capire questo però. Voi avete una legge votata, come dite, dalla rete, insomma, quantomeno dai vostri iscritti sulla rete. Sì. La politica prevede naturalmente, e come accade sempre, anche una mediazione. Allora, il PD arriva con le sue idee, o il governo arriva con le sue idee, voi arrivate con le vostre. C'è la possibilità di un punto di mediazione, o il vostro è un prendere o lasciare? Cioè, questa è la nostra proposta, o l'accettate o non se ne fa niente? No, credo che ci sia necessariamente la necessità di dare spazio a eventuali modifiche, migliorie delle parti della legge che è modificabile. Non andiamo lì con la pretesa del prendere o lasciare, però invitiamo il confronto delle forze politiche sulle varie componenti di questa legge elettorale, cioè la reintroduzione della preferenza, innanzitutto un sistema proporzionale corretto, che a nostro modo di vedere comunque non va contro la governabilità per una serie di meccanismi tecnici che ora non sto a spiegare, la possibilità, grandissima novità, di poter dare un voto negativo a un candidato di una lista. E questo dovrebbe riuscire a compensare l'inserimento in lista di personaggi impresentabili. Noi così come facciamo in commissione, quando presentiamo un emendamento, se c'è un emendamento migliorabile o un emendamento altrui migliore del nostro, noi non abbiamo difficoltà a ragionare tranquillamente ed esprimere un voto favorevole. Mi faccia capire un'ultima cosa, su questo fronte però quello che mi sembra che lei ci stia dicendo è: la base deve essere la nostra, cioè la base deve essere la nostra proposta, poi siamo disposti ad accettare eventuali modifiche, idee diverse che possono arrivare dal PD come da altri. Sì. Noi riteniamo che la nostra base di legge elettorale sia assolutamente più digeribile anche nei confronti della, come dire, dei criteri di legittimità costituzionale. L'Italicum parte già malato, come ho già detto prima, ormai morente, oltre che per i motivi politici dell'abbandono di Berlusconi, ci sembra di capire, al progetto, anche per i vizi intrinsechi della legge stessa, che prevede un premio di maggioranza irragionevole e di dubbia legittimità, da capo i listini bloccati, la possibilità di candidature in più collegi. Sono tutti criteri che noi, e riteniamo la maggior parte degli italiani che crediamo di rappresentare, non concordano con le aspettative di una legge elettorale degna che possa succedere al non rimpianto Porcellum. Quindi, in breve, nessuna fregatura per Renzi. No, nessuna fregatura, ovviamente nessuna fregatura da parte nostra, ovviamente non abbiamo neanche alcuna intenzione di farci fregare da Renzi, andiamo lì consapevoli che il nostro approccio è pragmatico, è serio, è istituzionale, di una opposizione propositiva come siamo sempre stati, e magari questo può servire anche per scalare un po' la montagna di un certo tipo di informazione che continua ancora a descriverci come quelli del no, quelli che non propongono nulla, quelli che salgono sui tetti e non sanno far altro. E allora abbiamo questa bella occasione che vogliamo offrire a Renzi, ma non perché gli vogliamo bene, ma vogliamo offrire al Paese, al dibattito politico pubblico. Grazie Bucarella, buona giornata e buon lavoro. Noi adesso parliamo di tasse e c'è Gianni Trovati. What else, Gianni. Buongiorno, benvenuto. Oggi giornata di delirio di scadenze, no? Che cosa c'è? Oggi c'è tutto, nel senso che scadono i versamenti di Unico, scadono tutti i classici versamenti del 16 giugno, la cedolare secca e così via, ma in più c'è naturalmente a far crescere di anno in anno l'ingorgo, il nuovo ospite, che è quello della Tasi, che è piccolino tutto sommato per valori totali rispetto agli incassi di oggi, parliamo di un paio di miliardi su 54, ma è bello robusto per quel che riguarda la complessità e gli interrogativi che ha sollevato fra i contribuenti. Naturalmente, tra l'altro, in realtà non per tutti i comuni, anche nemmeno per quelli che hanno già deliberato l'aliquota, la scadenza è questa, perché sarebbe troppo facile, diciamo. Anche i comuni che hanno deliberato l'aliquota in tempo e per i quali quindi la legge prevede il 16 giugno come termine di versamento, hanno in molti casi poi deciso, per venire incontro ai contribuenti disorientati, una ulteriore proroga dei versamenti. Quindi la prima cosa da fare per chi non volesse pagare oggi è verificare che il proprio comune abbia, magari non in delibera ma con un altro atto o con una delibera diversa, insomma, abbia deciso scadenze diverse, e ce n'è di ogni, dal 21 ho visto Gianni che c'è anche un 16 agosto che tra l'altro è un sabato e cade dopo un festivo. Sì, ma ce n'è più di uno di 16 agosto, noi ne abbiamo, in Sardegna sono molti i 16 agosti, le scadenze del 16 agosto, forse immaginando che i proprietari di mobili diversi dall'abitazione principale siano in loco e quindi raggiungibili, però insomma gli si rovina la vacanza, non è necessario che il proprietario sia in loco per pagare la tassa, si fa su internet. Ci sono scadenze di ogni tipo, c'è dal 31 ottobre al 30 luglio, 31 agosto ogni comune ha deciso la propria, e poi c'è il governo che ha aperto anche allo stop a sanzioni e interessi nel caso generale, diciamo, dei comuni anche che non abbiano deliberato la proroga. Siamo per ora all'annuncio, però, e quindi bisogna capire come e se questo stop a sanzioni e interessi, per esempio per chi sbaglia perché il comune ha deliberato 24 aliquote diverse, si attui, entro che limiti, entro che termini, probabilmente solo per i versamenti insufficienti come è accaduto per l'IMU e non per i versamenti mancati del tutto, però insomma lì gli annunci lasciano il tempo che trovano. Allora, da questo lato naturalmente vedremo che cosa succederà e se a un certo punto, verrà riordinata la disciplina, quantomeno per il 2015. Speriamo. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Michael Schumacher è uscito dal coma, comunica con la moglie con gli occhi, sente tutto quello che gli viene detto, ha lasciato l'ospedale di Grenoble. Ha ucciso la moglie e i figli e poi è andato a vedere la partita con gli amici, è stato arrestato e ha confessato, è responsabile della strage a Motta Visconti, nel Milanese. A Roma, dopo il nubifragio, la procura ha aperto un'inchiesta. Ci è arrivata poco fa notizia che l'assessore all'ambiente responsabile della protezione civile fa sapere che l'allarme per il maltempo in Sardegna al momento è rientrato a Santa Teresa di Gallura. Le persone che erano salite sui tetti sono state messe in sicurezza. L'apertura di Grillo a Renzi sulla legge elettorale, il presidente del Consiglio dice sì, ma il confronto avvenga in streaming perché lo vedano tutti. Ed è notizia di poco fa che è stata chiusa la sede regionale del Partito Democratico in Sicilia. Da oggi tutto il personale in servizio al partito è in cassa integrazione, un provvedimento che coinvolge 13 dipendenti. La borsa. Borse in diretta. È una giornata negativa, meno 0,84% sul FTSE MIB, meno 0,82% scusate, sul FTSE OCHER, Francoforte cede lo 0,25%, Parigi mezzo punto percentuale, Londra lo 0,29%. Isabella Tasso, Radio Cuore, Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Come mai vanno male le borse? Ma le borse perdono terreno in un mercato abbastanza fiacco, perché prende profitto dopo i recenti rialzi. Tutte le borse europee sono anche deboli dalle tensioni in Iraq, ma soprattutto c'è qualche presa di beneficio sui bancari a Milano e su altri titoli che hanno fatto bene nei giorni scorsi. Così Unicredit e Intesa cedono oltre l'1,5%, sono deboli anche le popolari, con la Pop Emilia giù di oltre il 3%. In controtendenza invece il Monte dei Paschi fa più 7% col titolo sotto aumento di capitale. E grazie anche per oggi a Isabella Tasso e ai colleghi di Radio Cuore Sole 24 Ore. Buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. C'è una notizia, o meglio una storia, che sta arrivando dalla Germania, che al momento sembra appare quantomeno come una sorta di scontro interno all'esecutivo, perché il vice cancelliere tedesco e ministro dell'economia Sigmar Gabriel dell'SPD, perché lo ricordiamo, in Germania c'è un governo di grande coalizione, propone di escludere i costi generati da tutte le misure di riforma dal calcolo del deficit nei paesi dell'eurozona. La portavoce del ministro delle finanze tedesco Schäuble, che invece è del partito di Angela Merkel, dice c'è già abbastanza flessibilità nel patto di stabilità e di crescita. Vedremo che evoluzione avrà tutto questo. Noi torniamo a parlare dell'Italia nel frattempo con i dati Istat sulla situazione demografica del paese. Nuovo bilancio demografico nazionale dell'Istat che riguarda l'anno scorso, con alcune inversioni di tendenza inedite. Siamo oltre 60 milioni e 700 mila persone, di cui più di 4 milioni e 900 mila di cittadinanza straniera, quasi 5 milioni in tutto. Siamo aumentati di poco, di appena 30 mila unità, e per la prima volta diminuiscono i nati stranieri, giù di oltre 2 mila unità rispetto all'anno precedente, anche se sono comunque il 15% del totale dei nati. Così spiega Angela Silvestrini dell'Istat. Dall'inizio dell'immigrazione straniera in Italia, il numero dei nati stranieri era sempre stato in crescita. Ma ci sono anche altre novità, in particolare dovute alla crisi, che si riflette sulla popolazione italiana e non solo. Aumenta l'emigrazione italiana e diminuisce l'immigrazione straniera. L'anno scorso sono andate via dal nostro paese 182.000 persone in più. È il dato più alto che abbiamo rispetto agli ultimi 10 anni dell'emigrazione italiana, cioè dei trasferimenti di italiani verso l'estero. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E restiamo all'Italia invece con una storia di cronaca, con perquisizioni e arresti questa mattina all'Agenzia delle Entrate a Reggio Emilia. Ci sono anche un funzionario e alcuni dipendenti dell'Agenzia delle Entrate fra le persone arrestate stamattina a Reggio Emilia dai carabinieri del comando provinciale su ordine della procura. L'inchiesta, denominata Nottingham, avrebbe portato alla luce una serie di controlli fiscali pilotati grazie al pagamento di alcune tangenti. In tutto sarebbero 5 le persone finite in manette. Fra di loro ci sarebbe anche un politico, un candidato sindaco alle scorse amministrative in un comune della provincia di Reggio. In mattinata i militari dell'arma hanno eseguito anche una serie di perquisizioni negli uffici dell'agenzia. Il materiale sequestrato sarà presto a disposizione degli inquirenti, che al momento non hanno ancora reso noti i nomi delle persone coinvolte nell'inchiesta. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è il momento, come tutti i lunedì e i venerdì, di Daniele Biacchessi. La piattura di Grillo e Casaleggio a Renzi in tema di riforme fa dunque ripartire la discussione dal punto di partenza, cioè dal dopo elezioni politiche del 2013. Allora il Partito Democratico di Pierluigi Bersani, certo di una vittoria, incassò un magro secondo posto come forza politica in Italia. Fa niente se per essere primo dovette allora contabilizzare i voti degli italiani all'estero. Solo un anno fa il Movimento 5 Stelle, forte di un risultato straordinario, poteva dettare le regole delle riforme, guidare il loro cammino. E invece no, l'occasione mancata fu proprio la diretta streaming tra Grillo e Renzi, finita, come ricordano tutti, in un sostanziale fallimento. C'era allora un bisogno da parte di Grillo di far prevalere i propri argomenti a tutti i costi, più per bene privato che per bene comune, ed è proprio il mancato riconoscimento tra Grillo e Renzi il vero problema delle mancate riforme. Ieri il Movimento 5 Stelle ha aperto al Premier e Grillo è partito proprio dal riconoscimento di Renzi, dalla legittimità ottenuta dal voto popolare alle recenti elezioni europee, dal netto cambiamento dei rapporti di forza tra i due partiti. Molti, a sinistra e non solo, hanno pensato che più che con Berlusconi, il cui peso politico oggi si è notevolmente affievolito, Renzi dovesse fare accordi con Grillo in tema di riforme che riguardano tutti, in primis quella sulla nuova legge elettorale. Ora c'è una grande opportunità politica, un accordo tra partiti e movimenti che insieme rappresentano, stando agli ultimi voti presi alle europee, oltre il 60% dei voti e che quindi sarebbero in grado di cambiare le regole subito. È anche il modo per capire quanto nel Movimento 5 Stelle sia forte il desiderio di poter in qualche modo guidare questo cambiamento. In caso negativo sarebbe un'altra occasione sprecata, forse l'ultima, per poter portare a casa riforme chieste dai cittadini attraverso il voto. E qualche altra notizia appena arrivata in redazione. Innanzitutto c'è un comunicato di Confedilizia per le code interminabili agli sportelli per pagare IMU e TASI, magari qualcuno di voi le ha vissute. La situazione è insostenibile, attacca l'organizzazione dei proprietari, sottolineando che è concreto il rischio che molti cittadini non riescano entro oggi ad effettuare il versamento. Confedilizia chiede ai comuni di riunire d'urgenza le giunte, i consigli comunali e di rinviare ulteriormente. Le altre notizie che abbiamo arrivano dall'Ucraina, dove i separatisti dell'autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk si sono impossessati della sede della banca centrale proprio a Donetsk, capoluogo della regione che è cuore industriale e minerario del paese, lo fa sapere l'agenzia Interfax. Tutto questo dopo le tensioni di questa mattina a proposito del gas. Infine un'ultima notizia in merito alla tensione in Iraq, che sta spingendo al rialzo i prezzi della benzina. Stando alle rilevazioni di Staffetta Quotidiana, tutti i marchi attivi sulla rete italiana, tranne Tamoil, hanno messo mano ai listini. Eni ha deciso un ritocco di 1,5 centesimi sia per la benzina che per il gasolio. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. E sentiamo Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, vorrei cominciare la trasmissione di oggi, che voglio dedicare alla vicenda irachena, alla terribile, alla tremenda crisi irachena, con quanto mi disse un paio di settimane fa, quando mi trovavo in viaggio al seguito del presidente Obama, un alto funzionario della Casa Bianca, cioè che il fronte più fragile della NATO dopo quello ucraino era nel Mediterraneo, e dunque l'Italia doveva in qualche modo preoccuparsi, doveva essere molto in allerta. Fronte fragile, diceva, perché c'era un pericolo elevato in prospettiva di infiltrazioni terroristiche, un pericolo elevato di un aumento dei flussi di immigrazione già elevatissimi, un pericolo elevato di una ulteriore destabilizzazione in Libia e comunque nella regione. Ecco, col senno di poi mi rendo conto di quel che mi stava anticipando quest'alto funzionario, e cioè del rischio esplosivo del calderone medio orientale, del calderone iracheno, del calderone siriano. Lo abbiamo visto la settimana scorsa, ne abbiamo parlato brevemente nel corso della trasmissione, ma oggi si impone una riflessione un po' più approfondita, perché la situazione sta davvero degenerando, a partire da quel che succede sul campo. Le cronache le avete seguite, 1700 soldati iracheni catturati da questo gruppo di miliziani che appartengono a Al-Qaeda, che appartengono a un fronte islamico, al fronte islamico per la costruzione di uno Stato fra Siria e Iraq, ISIS si chiama, e li hanno massacrati a sangue freddo. Hanno fatto delle fotografie per documentare questo loro massacro e le hanno addirittura messe su internet. Il generale iracheno Qasim al-Musai ha confermato l'autenticità di queste fotografie, definendo quello che è successo un genocidio, perché alla fine abbiamo un gruppo di militanti di estrazione sunnita che ha come unico obiettivo quello di punire, lo hanno detto loro stessi, massacrare, colpire coloro che invece sono di estrazione sciita. Con una preoccupazione, e qui arriviamo all'avvertimento sul terrorismo che mi fece quest'alto funzionario della Casa Bianca, perché chi è che si sta muovendo in realtà? Beh, in realtà sono delle forze terroristiche, sono delle forze che appartengono alle schegge impazzite di Al-Qaeda, e quel che mi preoccupa è che, osservando una mappa del territorio sotto il controllo di queste forze, beh, questi signori stanno cercando di costituire un vero e proprio Stato. Del resto Al-Qaeda cercava di ricostituire uno Stato che aveva perduto dopo l'invasione americana delle forze alleate dell'Afghanistan, ed era questo l'obiettivo principale. Sappiamo di infiltrazioni nello Yemen, sappiamo di infiltrazioni in Siria. Che sta capitando in mezzo a questa guerra civile, a questo massacro, a questo genocidio? È che decine di migliaia di persone stanno scappando. Stanno scappando dove? Beh, alcuni in Giordania dall'Iraq, altri dalla Siria verso la Turchia. Sappiamo qual è il problema dei rifugiati in Turchia, centinaia di migliaia di persone. Ecco, da questo movimento, da questo esodo, da questo flusso, una gran quantità di persone potrebbe cercare di poi arrivare nel Mediterraneo e penetrare quello che è considerato il confine molle per entrare in Europa, e cioè il Mediterraneo, subito sulle sponde dell'Italia, della Sicilia. Tra l'altro, proprio la settimana scorsa feci, per questa ragione, per queste preoccupazioni, una domanda al ministro dell'economia Padoan, chiedendogli se era preoccupato da questi flussi migratori. E beh, lui, insomma, come dire, disse: beh, c'è l'aspetto umanitario. Mi ha colpito, parlando di aspetto umanitario, al quale noi siamo molto, forse troppo sensibili a volte, quello che ha detto nei giorni scorsi il Dalai Lama, affermando che, attenzione, perché a essere troppo indulgenti si rischia di finire in una spirale dannosa per tutti. We received a warning from the Qatari intermediaries that as we proceeded, time was not on our side. Ecco, ma cosa fa l'America? Avete sentito? Chuck Hagel, segretario al Pentagono, ha deciso di inviare il portaerei US George H.W. Bush e due altre navi militari nel Golfo Persico. Il governo Obama deve cercare di capire come intervenire per fermare questi ribelli dell'ISIS, che tra l'altro hanno già organizzato degli attentati a Baghdad, si stanno dirigendo verso la capitale, e come ha ricordato il presidente non ci saranno degli interventi sul territorio iracheno, ma molto probabilmente potrebbero esserci già nei prossimi giorni degli attacchi aerei. L'America comunque è preoccupatissima, l'America di Obama, perché si rende conto che la situazione gli sta scappando completamente di mano. Ecco, e qui il colpo di scena, perché qual è stato lo sviluppo che abbiamo seguito negli ultimissimi giorni? Hassan Rouhani, il leader iraniano, ha detto: beh, se la situazione dovesse degenerare, potremmo anche considerare una possibilità di allearci con gli Stati Uniti per combattere questa invasione di estremisti sunniti. Ricordiamolo, l'Iran è fatto di sciiti, gli iraniani appoggiano il regime sciita a Baghdad e quindi hanno deciso di intervenire. All'inizio hanno mandato soltanto 500 soldati alla Guardia Repubblicana, però è chiaro che il loro impegno potrebbe essere molto molto più ampio. E dunque arriviamo a un assurdo: gli Stati Uniti e l'Iran potrebbero trovarsi in alleanza per combattere alla fine Al-Qaeda. È dunque una trovata questa di un'alleanza possibile con l'Iran di Barack Obama? No, perché avete sentito Lindsey Graham, il senatore repubblicano, un falco repubblicano al Senato, che dice, beh, se la situazione dovesse davvero degenerare, un'alleanza con l'Iran per cercare di evitare, di scongiurare questo dramma, questa destabilizzazione completa, totale, pericolosissima per l'Occidente, da cui potrebbe nascere un nuovo 11 settembre, questa destabilizzazione in Iraq e Siria, beh, allora forse un'alleanza potrebbe essere possibile. E ha detto, beh, è un po' come fecero gli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale, alleandosi con il dittatore sovietico Stalin. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, c'è un'indiscrezione. La rete televisiva americana NBC sta lavorando a una serie televisiva sui Beatles e alla loro fantastica carriera. Ecco, devo dire, mi sono ispirato a una canzone dei Beatles e a questo momento straordinariamente difficile in cui davvero abbiamo tutti bisogno di aiuto e di aiutarci a vicenda, per proporvi dei Beatles, Help. Now these days are gone and I'm not so self-assured. Now that I've found out I have changed my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24. Ed è tutto per Effetto Giorno. Un ringraziamento a Filippo Aureggi in regia, Laura Faggin in assistenza e redazione, tutta la redazione di Radio 24 come sempre. Effetto Giorno a radio24.it per scriverci. La trasmissione torna domani alle 13 con Cennino. Ci risentiamo tra un attimo con GR24.